le 13 in punto. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Lehman, il giorno dopo, dominano ancora i ribassi sulle borse europee. Tokyo perde il 5%, ai minimi da 3 anni. Tra poco in XL parleremo dei rischi della crisi e degli effetti sui risparmiatori. All'Italia è tutto di nuovo rimandato. Oggi non ci sarà il vertice intersindacale. Si attende la riunione dei soci della compagnia aerea italiana fra 2 giorni. E ora l'Ucraina. Sarà là il nuovo fronte di tensione tra Russia e Stati Uniti. Oggi è definitivamente implosa la coalizione filo-occidentale. Ancora un segno meno per le immatricolazioni di auto in Europa. Ad agosto le richieste sono diminuite del 15,6% rispetto all'anno scorso, meno marcato il calo di Fiat. Musica in lutto, addio allo storico tastierista dei Pink Floyd, Richard Wright, e al cantautore italiano Stefano Rosso. Totti in campo, sono al 70%, ma ci sarò, dice il capitano della Roma che debutta questa sera nella Champions League. Una buona giornata da Simone Spezia ed Alessandra Tedesco. E bentornati al GR Extra Large, che apriamo ancora con l'impatto sui mercati del fallimento di Lehman Brothers, il colosso bancario americano. Sempre in ribasso le borse europee, come del resto avete sentito anche in salvadanaio, e questa mattina il mercato giapponese ha chiuso con un calo di quasi 5 punti percentuali, arrivando ai minimi da 3 anni a questa parte. Deborah Rosciani, ti ritroviamo dopo un'intensa puntata di salvadanaio dedicata proprio a questo. Com'è la situazione in borsa adesso? Allora, la situazione sta di nuovo improvvisamente peggiorando, perché questa mattina, soprattutto dopo le nuove iniziative di iniezione di liquidità da parte delle banche centrali sul mercato, le piazze finanziarie reduci dal lunedì nero avevano iniziato male la giornata, ma con cali tutto sommato contenuti. Dopo le iniziative delle banche centrali erano addirittura stati cali che si erano ridimensionati. Adesso vedo di nuovo invece un calo piuttosto forte su Londra, che guida i ribassi europei, meno 2,52%, Francoforte meno 1,75%, Parigi meno 1,76%, Milano sull'S&P MIB perde il 2,34%, la tendenza è chiara, stanno scendendo di nuovo tutti i titoli del settore bancario ed assicurativo. A Piazza Affari infatti il calo del 4,5% sulla Popolare di Milano, sul Banco Popolare, su Fondiaria e su Intesa San Paolo, per cui la tendenza mi sembra oggi di nuovo piuttosto chiara, ancora grande incertezza tra i mercati dopo la crisi Lehman Brothers. Deborah, ma chi sono i risparmiatori che rischiano ed eventualmente che cosa devono temere? Allora, ci sono molti risparmiatori in Italia, ne abbiamo parlato poco fa a salvadanaio, che hanno in mano titoli Lehman Brothers, nella fattispecie obbligazioni, sarebbero piccoli risparmiatori che hanno in mano circa 10 milioni di euro in titoli Lehman, ma possono avere anche in portafoglio obbligazioni strutturate che il cui rendimento o la cui restituzione del capitale è legata in qualche maniera a obbligazioni Lehman Brothers. A cosa vanno incontro? I privati che hanno in portafoglio titoli obbligazionari emessi da questa azienda in fallimento rischiano di non essere rimborsati alla scadenza prefissata, esattamente come è successo per esempio nel caso Bond Cirio o Parmalat in passato. Questo è uno dei rischi sicuramente più importanti. Deborah, un'ultima domanda. Si è parlato già ieri di un possibile intervento della Federal Reserve, la banca centrale americana. È un'ipotesi in campo quella che possa intervenire sui tassi di interesse? È un'ipotesi in campo che in questo momento stanno commentando, lo vedo anche dalle agenzie, molti gestori e molti responsabili degli investimenti anche di case e di società di gestione italiane. Da ieri circola la voce a Wall Street che ci possa essere un taglio stasera da parte della Federal Reserve dello 0,25% sul costo del denaro. Alcuni analisti però sottolineano che la Federal Reserve potrebbe dare anche un segnale più deciso al mercato, quindi queste sono le ipotesi che al momento sono le più accreditate. Grazie Deborah Rosciani. Prima facevamo riferimento ai timori dei risparmiatori, ma chi ha una certezza, una brutta certezza, sono i dipendenti di Lehman. In 50.000 sono stati licenziati, di cui 140 in Italia. E campeggia su molti quotidiani una foto, insomma, in particolare campeggia su tutti i quotidiani la foto di un dipendente della Lehman che esce con uno scatolone, ma soprattutto quella che ci ha colpito particolarmente è la foto presa dalla stampa nel grande palazzo di Lehman Brothers. Broker impiegati ascoltano le disposizioni dei loro vertici, sono tutti appoggiati al vetro del grattacielo nel quale stanno, e quindi si vedono le schiene di tutti gli impiegati che sentono i loro vertici che evidentemente gli annunciano il licenziamento. E dicevamo, il licenziamento riguarderà 50.000 persone, di cui 140 in Italia. Un modo però tutto diverso, quello del mondo anglosassone, di affrontare passaggi drammatici come questi rispetto al nostro. Non hanno voglia di dare spettacolo i lavoratori, o sarebbe meglio dire i disoccupati della Lehman Brothers. Mal si prestano le domande dei giornalisti alla luce delle telecamere. Il loro lavoro, la carriera, i progetti, il mutuo, i figli da mandare a scuola, sono tutti in quella scatola che si portano appresso e che parla per loro. Una scatola che rappresenta per i 10.000 della sede di Septima Avenue a New York la fine improvvisa arrivata via email una domenica sera di fine estate. Hanno trascorso l'ultima giornata d'ufficio a inviare curriculum prima che venisse bloccato il server di posta elettronica, per paura che insieme alle richieste di lavoro uscissero documenti, dati, elenchi di clienti. Se ne vanno mentre turisti e buontemponi si fanno fotografare davanti all'insegna dell'azienda di cui sono andati fieri e che crolla dopo 158 anni. Ce ne sono altri 40.000 come loro a New York, 6.000 in Europa, 140 in Italia, a cui si aggiungono in America i 200.000 del cosiddetto indotto, camerieri, cuochi, posteggiatori, custodi. I 120 della sede milanese di fronte a Piazza del Carmine sfidano in dignità e discrezione i colleghi americani. In una cosa differiscono, non hanno la scala. La comunicazione ufficiale a loro non è ancora arrivata. Roberta Pellegatta, GR24, il Sole 24 Ore. Da un'azienda in crisi ad un'altra, sperando naturalmente che non finisca come Lehman Brothers. Parliamo di Alitalia naturalmente. Questa mattina il ministro per lo sviluppo economico Claudio Scajola ha ribadito il suo ottimismo. Credo che il buon senso trionfi sempre, ha detto. Gli incontri fra governo, CAI e sindacati proseguiranno fino a giovedì. La trattativa sembra essersi almeno in parte riaperta. Qual è il punto? Lo chiediamo alla nostra Francesca Malaguti. Francesca. Sì, in effetti la trattativa è ripresa dopo la crisi della scorsa settimana e ora il governo incalzato dalla CAI vuole chiudere l'accordo definitivo sul contratto. Ieri sera c'è stato un nuovo incontro a Palazzo Chigi con CGIL, CISL, UIL e UGL che hanno confermato la disponibilità a continuare a trattare. Poco prima il governo aveva ricevuto le sigle di categoria, assistenti di volo, di terra e piloti, dopo le loro proteste durate tutto il giorno per essere convocati al tavolo che li vedeva esclusi da venerdì. L'incontro ha dato un primo risultato. Gli assistenti di volo dell'ANPAV sono pronti a sottoscrivere l'accordo quadro sul piano industriale già approvato dai confederali domenica notte. L'incontro decisivo tra CAI, governo e le nuove sigle sul contratto dovrebbe esserci domani, anche in vista dell'assemblea degli azionisti della CAI fissata per giovedì. Poi, lo avete detto, in queste ore era atteso un vertice tra i sindacati che per il momento è stato rinviato. Ecco Francesca, questa mattina tu però ti trovi all'aeroporto romano di Fiumicino. Che clima si respira lì? A Fiumicino in realtà adesso sembra una giornata di tregua, non ci sono proteste, i voli all'Italia partono e arrivano regolarmente. Poco fa abbiamo anche contattato il call center della compagnia e per prenotare un biglietto e ci hanno confermato che i biglietti vengono venduti regolarmente anche per i prossimi mesi. Quindi direi che dall'aeroporto di Fiumicino è tutto per ora. Grazie Francesca Malaguti, ora diamo spazio allo sport con il calcio perché inizia questa sera la Champions League. Chissà se davvero tutte le strade portano a Roma. Di sicuro quest'anno arriva nella capitale il cammino della Champions League, finalissima il 27 maggio all'Olimpico. Come impedire allora ai tifosi giallorossi di sognare Totti e soci sul prato di casa a giocarsi il trono su cui siede ora il Manchester United? L'inizio di stagione non è stato granché, ma stasera contro i romeni del Cluj, Spalletti prova a ritrovare la Roma tutto spettacolo, magari col recupero a sorpresa del capitano. È sotto gli occhi di tutti che non stiamo riuscendo a fare le cose che facevamo, però la squadra crede nelle potenzialità che ha e bisogna lavorare in profondità e rimetteremo le cose a posto. Quasi inutile dire però che il personaggio più atteso è lui, quel José Mourinho che Moratti ha voluto alla guida dell'Inter proprio per conquistare la Coppa dalle grandi orecchie. L'ennesimo assalto nerazzurro inizia in quell'Atene che ha visto 2 anni fa l'ultimo successo europeo dei cugini rossoneri, ora in disgrazia. Mourinho è pronto per il Panathinaikos, ma pensa già in grande. Io non ho paura di dire che sì, che la mia squadra vuole vincere, ma non sono pazzo, sono realistico, conosco la competizione molto bene, è una competizione molto molto difficile. Domani poi tocca Juventus contro il pericoloso Zenit e Fiorentina in trasferta a Lione. Intanto la riforma voluta da Michel Platini ha aperto porte e casseforti della Champions a qualche piccola in più, come i bielorussi del Bate Borisov e i ciprioti della Nortosis. Ma le favorite restano sempre le big continentali. Più stuzzicante allora pronosticare le possibili sorprese. Occhio quindi all'accoppiata Zenit-San Pietroburgo e Atletico Madrid. Dario Ricci, GR24, Il Sole 24 Ore. A proposito di calcio, c'è un intervento del ministro dell'interno Roberto Maroni che dice le dichiarazioni del dirigente del Catania Pietro Lo Monaco sono un'istigazione alla violenza. Intervenga il giudice sportivo o la Lega Calcio o la FIGC. Si riferisce in particolar modo Maroni a quello che Lo Monaco aveva detto a proposito dell'allenatore dell'Inter, José Mourinho. Simone, che cosa aveva detto? Che cosa è successo? Che l'Inter ha vinto col Catania 2-1. Alla fine della partita Mourinho ha detto avremmo potuto vincere 5-1. Lo Monaco si è arrabbiato e ha detto Mourinho sarebbe da prendere a bastonate, salvo poi correggersi nella giornata di ieri e dire le bastonate naturalmente erano solamente metaforiche. In meno di 24 ore è diventata un rap che circola su internet. Ci riferiamo alla frase che è stata pronunciata ieri a Porta, Simone, dalla campionessa di Fioretto. Sì, la campionessa di Fioretto Valentina Vezzali, rivolta al premier Silvio Berlusconi. Allora sentiamo questo nuovo pezzo musicale. Presidente, io da lei mi farei veramente toccare. Mi farei veramente toccare. Con persone come lei, con persone come me che... Ebbene, anche la signorilità del Presidente del Consiglio non la toccherei nemmeno come un fiore. Insomma, quel che si deve dire è il commento di Bruno Vespa, no? Toccare in senso tecnico, una precisazione dovuta. L'OCSE critica l'Italia per la situazione degli uffici del commissario anticorruzione. Ne parliamo fra poco a XL. GR Extra Large, queste le notizie della giornata. Ancora ribassi sulle borse europee, il giorno dopo l'annuncio del crack di Lehman Brothers. Questa mattina Tokyo ha chiuso con un calo del 5%, toccando i minimi da 3 anni. Sono 50.000 in tutto il mondo i dipendenti della banca d'affari americana che perderanno il posto. Inizia a circolare la voce di un possibile taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve. All'Italia la trattativa sembra riaprirsi. Ieri l'incontro con il governo di sindacati confederali autonomi, sbloccata la situazione degli assistenti di volo. Si dovrebbe chiudere tutto entro giovedì, quando si riuniranno i soci della compagnia aerea italiana. Di nuovo un calo per le immatricolazioni auto in Europa, riesce a tenere però il gruppo Fiat. La quota di mercato nel vecchio continente sale al 7,2%. E ora Ucraina, sarà là di nuovo il fronte di tensione fra Russia e Stati Uniti. Oggi è definitivamente implosa la coalizione filo-occidentale. Aveva parlato di bastonate sui denti a Mourinho, ora contro il dirigente del Catania Lo Monaco interviene il ministro dell'interno Maroni, istiga alla violenza. Musica in lutto, addio allo storico tastierista dei Pink Floyd Richard Wright e al cantautore italiano Stefano Rosso. Abbiamo parlato delle conseguenze del fallimento di Lehman Brothers sulle borse e per chi ci lavora, oltre che per i risparmiatori, ma ora cerchiamo di capire qualcosa di più sulle ragioni di questa crisi finanziaria, non certo l'unica degli ultimi tempi. Fabrizio Galimberti, editorialista del Sole 24 Ore, autore del libro Economia e pazzia, crisi finanziarie di ieri e di oggi. Buongiorno. Buongiorno, grazie. Allora Fabrizio, la prima domanda che ti vogliamo fare è il cercare di capire come si è generata questa crisi. Insomma, a leggere quel che dicono gli economisti, si parla di un'eccessiva finanziarizzazione del sistema, ossia è un sistema ormai basato eccessivamente, diciamo così, sul capitalismo finanziario e poco sull'economia reale. Tu come la vedi? Beh, direi che sempre a proposito di quel famoso libro forse sarebbe ora di aggiungere un altro capitolo, perché in effetti è stata una pazzia in un certo senso. Quello che è successo che l'innovazione non ha risparmiato la finanza. Di solito si parla di innovazione, pensiamo al computer, pensiamo alle telecomunicazioni, pensiamo a tanti congegni che fanno parte della nostra vita quotidiana e che sono sempre più tecnologicamente complessi, però c'è anche una tecnologia della finanza che in questi in questi ultimi lustri è andata avanti galoppando, è stato uno dei settori più innovativi del pianeta. E in effetti c'era ragione di innovare, perché un investitore che voglia mettere i suoi soldi da qualche parte deve sempre scegliere fra un rischio e un rendimento, deve scegliere le coppie di rischio e rendimento adatte alle sue personali preferenze. Ebbene, la finanza si è data come scopo di questa ondata di innovazione quella di occupare tutte le possibili nicchie della coppia rischio-rendimento, mentre prima diciamo c'era una scelta limitata, adesso questa scelta si è fatta molto più variegata, e quei famosi junk bonds e titoli spazzatura offrivano molto rischio e molto rendimento. Ma Fabrizio, secondo te c'è stata anche una certa imprudenza da parte dei vertici, per esempio di Lehman Brothers o anche di altre banche d'affari? Beh, c'è stata una imprudenza nel senso che hanno questo amore, diciamo, per questi giocattoli finanziari, queste cartolarizzazioni, questi titoli impacchettati e reimpacchettati e poi rivenduti, erano delle cose che dovevano servire al bilancio della banca per avere un effetto di leva, per poter fare dei prestiti, poi impacchettare questi prestiti in obbligazioni, venderli al pubblico e quindi riavere di nuovo altri soldi per fare altri prestiti, ma tutto questo ha portato ad un forte aumento dell'attivo bancario rispetto al capitale, e quindi questo effetto di leva finanziaria ha portato a una situazione in cui era obiettivamente imprudente avere, diciamo, un capitale di 10 e fare prestiti molto superiori a questo capitale, e finché le cose andavano bene questo non aveva portato problemi, quindi l'imprudenza è stata nel non avere capito che quando il vento girava la leva finanziaria avrebbe agito nel senso opposto, e quindi si sarebbe, diciamo, la molla sarebbe scattata nell'altra direzione. E tutto questo si è verificato quando tutti questi titoli così complessi sono stati rifiutati dal mercato. C'erano tante mele nel paniere, alcune erano marce, altre sane, però dato che non si sapeva bene quanti erano marce e quante sane, e dato che non si sapeva bene se le mele sane sarebbero state conteggiate dalle mele marce, ecco che il mercato ha fatto abbassare le quotazioni di tutte le mele, e questo ha portato a delle minusvalenze che hanno inferto dei grossi colpi alle bilanci delle banche. Fabrizio, di fatto noi stiamo entrando e siamo già entrati in una grande crisi finanziaria, ma sembra che ne siamo appena usciti, insomma ci riferiamo a quella del dopo 11 settembre 2001, dopo gli attentati alle Torri Gemelle, che era una crisi finanziaria non generata solamente dal terrorismo, si è detto spesso, ma da altre questioni. Ecco, per il futuro, secondo te, dobbiamo aspettarci sempre di più crisi finanziarie così ravvicinate? Ma io credo di no, perché questa crisi che stiamo vivendo adesso è stata, a mio parere, una crisi di crescenza, cioè questa ondata di finanziarizzazione dell'economia non era necessariamente cattiva. Adesso, come in tutte le innovazioni, c'è stato un periodo in cui l'innovazione è stata usata oltre quanto era lecito, quindi c'è stata un'euforia. Questa euforia ha portato a delle bolle che sono scoppiate in modo tossico, in modo doloroso, però impariamo da queste cose e ci sarà un consolidamento del sistema finanziario che abbiamo visto in questi tempi. È una cosa di cui molti non si sono resi conto, è che in tutto questo bailamme i profitti delle banche, non i profitti quelli compresi delle minusvalenze, ma i profitti veri, quelli che determinano, che sono determinati dalla normale attività di prestito, i profitti profitti hanno continuato su livelli elevati. Grazie a Fabrizio Galimberti, economista, editorialista del Sole 24 Ore e tra l'altro autore del libro Economia e pazzia, le crisi finanziarie di ieri e di oggi. Grazie e buona giornata. Grazie, arrivederci. La notizia domina anche le prime pagine dei quotidiani arabi. Il fallimento del colosso finanziario USA Lehman Brothers e la conseguente crisi delle borse mondiali domina le aperture anche della stampa araba. Il panarabo Al-Hayat parla di ingenti danni per gli investimenti arabi in Occidente causati dalla bancarotta della quarta più grande banca USA. Per il quotidiano, di proprietà saudita, oltre le borse, il greggio è la vittima sacrificale di questa crisi che avrebbe fatto crollare i prezzi del petrolio di 50 dollari al barile, ovvero il livello più basso registrato da 7 mesi. I giornali di paesi come il Sultanato di Oman e del Qatar riportano l'allarme degli operatori economici che chiedono alle autorità di intervenire per bloccare il crollo delle borse locali. Sharq al-Awsat apre con il titolo «Uno tsunami provoca la peggiore crisi finanziaria della storia». Il Foglio, anche questo di proprietà saudita, mette l'accento sugli effetti devastanti sulle principali borse dei ricchi emirati del Golfo e riferisce che nella sola borsa di Riyadh, ieri, in poche ore, sono andati in fumo 23,7 miliardi di dollari americani. Ieri vi abbiamo parlato dei presunti contatti fra 'Ndrangheta e politici locali in vista dell'Expo 2015 a Milano e da nostri microfoni l'assessore all'urbanistica di Somma Lombardo Massimiliano Carioni si era difeso. Oggi vi parliamo ancora del rischio 'Ndrangheta e non solo, criminalità organizzata in generale per gli appalti dell'Expo. Dopo 3 bocciature da parte del centrodestra a Milano si torna a parlare della possibilità di creare una commissione antimafia cittadina per gestire appunto la strada verso l'esposizione universale. Pierfrancesco Maiorino, capogruppo gruppo del PD, riporterà la proposta in consiglio comunale. Lo sentiamo al microfono di Roberta Pellegatta. Ci ritroviamo perché siamo convinti del fatto che sia utile avere la massima attenzione di tutte le istituzioni su un tema tanto delicato, anche perché non crediamo che Milano corra un rischio di infiltrazione. Pensiamo che ci sia già l'infiltrazione. È del tutto evidente che l'Ndrangheta è dentro l'economia milanese lombarda. È veramente un atteggiamento bizzarro quello degli esponenti del centrodestra milanese, che lascia intendere che ancora una volta si sottovaluta un pericolo. Una commissione comunale antimafia che il vice sindaco di Milano continua a non considerare strategiche. Allora sentiamo Riccardo Decorato. Io sono convinto che il sindaco ha tutti gli strumenti per poter intervenire e sconfiggere questo tipo di infiltrazione. L'Ndrangheta da Milano oggi è presente come lo era presente in passato. C'è già la commissione antimafia del Parlamento. Credo che fare una riedizione è una brutta fotocopia. Una commissione conoscitiva sul fenomeno dell'Ndrangheta credo che si possa fare, ma conoscitiva, che ha una impostazione completamente diversa da quella d'inchiesta, perché ripeto, c'è già una commissione, quella parlamentare, che già svolge inchieste su questo tipo di infiltrazioni mafiose. Parliamo ancora di criminalità, o meglio di lotta alla criminalità. L'OCSE critica l'Italia per la condizione nella quale versa il commissario anticorruzione. In Italia la corruzione è diffusa. Certamente non si è dissolta dopo le inchieste del Pullman di Pulite di Milano. Il secondo governo Berlusconi aveva istituito l'Alto Commissariato nel 2004. Aveva compiti precisi: prevenire, contrastare ogni forma di illecito nella pubblica amministrazione. I nomi scelti alla guida di questa istituzione sono stati, nell'ordine, Gianfranco Tatozzi, Bruno Ferrante, Achille Serra, Vincenzo Grimaldi, tutti personaggi prestigiosi, tutti di rilievo. Il terzo esecutivo Berlusconi ha chiuso l'esperienza dell'Alto Commissariato e ha conferito le sue deleghe al ministro Renato Brunetta. Ora l'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, chiede all'Italia perché l'istituzione è stata chiusa dopo 4 anni di attività. Al ministero fanno sapere che i contatti con la Guardia di Finanza restano continui, ma si devono risolvere problemi pratici: il ripristino di linee telefoniche e internet nella nuova sede, il passaggio del personale alla nuova struttura. Praticamente manca tutto. Ora si attende la risposta ufficiale italiana all'OCSE. Daniele Biacchesi, GR24, Il Sole 24 Ore. morto ieri a 65 anni per un tumore Richard Wright, storico tastierista dei Pink Floyd. La musica che sentiamo è quella straordinaria di Shine On You Crazy Diamond da Wish You Were Here, uno dei leggendari album insieme a Dark Side of the Moon nei quali fornì il suo contributo non solo musicale ma anche creativo. Wright lasciò il gruppo fra l'80 e l'87 quando alcuni problemi personali causarono la rottura con Roger Waters, che lo cacciò durante le registrazioni di The Wall. La scomparsa di Wright segue dopo circa 2 anni quella di un altro fondatore della band, Syd Barrett, che abbandonò i Pink Floyd nel 68 e fu proprio l'uscita di scena di Barrett a fare di Wright il compositore melodico del gruppo. E veniamo in casa nostra, perché ieri è morto anche il cantautore Stefano Rosso, 59 anni, cantante e chitarrista, apparteneva alla scuola dei cantautori romani, a fine anni 70 era diventato celeberrimo grazie alla sua storia disonesta. Ebbene, se questo nome non vi dice niente, questa musica ve lo dirà. Che bello, due amici, una chitarra, lo spinello, e una ragazza giusta che ci sta, e tutto il resto di te. Che bello, se piove porteremo anche l'ombrello. E fra poco parleremo di immatricolazioni auto e ancora crisi nel settore. Vi daremo i risultati, i dati europei. Sono le 13.35, queste le notizie del GR Extra Large. Ancora in ribasso le borse europee, il giorno dopo l'annuncio del crack di Lehman Brothers. Questa mattina Tokyo ha chiuso con un calo del 5%, toccando i minimi da 3 anni. La Federal Reserve potrebbe tagliare i tassi. Sono 50.000 in tutto il mondo i dipendenti della banca d'affari americana che perderanno il posto. All'Italia la trattativa sembra riaprirsi. Ieri l'incontro con il governo di sindacati confederali autonomi, sbloccata la situazione degli assistenti di volo. Si dovrebbe chiudere tutto entro giovedì, quando si riuniranno i soci della compagnia aerea italiana. Prosegue intanto l'inchiesta della Procura, notizia di poco fa, acquisiti i bilanci degli ultimi 10 anni. Aveva parlato di bastonate sui denti a Mourinho, ora contro il dirigente del Catania allo Monaco interviene il ministro dell'interno Maroni, istiga alla violenza. Si apre il processo per l'omicidio di Meredith Kercher, Amanda Knox e Rudy Ghedè sono in aula per l'udienza preliminare, non invece Raffaele Sollecito. Ucraina, la coalizione arancione filo occidentale che voleva l'ingresso nella NATO è finita ed è a Kiev il nuovo fronte di tensione tra Russia e Stati Uniti. Di nuovo un calo per le immatricolazioni di auto in Europa, riesce a tenere il gruppo Fiat, la quota di mercato nel vecchio continente sale al 7,2%. Musica in lutto, è morto ieri lo storico tastierista dei Pink Floyd Richard Wright, lavorò ad album leggendari come Wish You Were Here e Dark Side of the Moon. La notizia di poco fa l'avete sentita dal riepilogo dei fatti del giorno. I bilanci consolidati degli ultimi 10 anni di Alitalia sono stati acquisiti oggi insieme con altra documentazione dal Nucleo di Polizia Tributaria della Finanza di Roma, nell'ambito naturalmente dell'inchiesta della Procura aperta dopo la dichiarazione di insolvenza della nostra compagnia di bandiera. Parliamo adesso di dati arrivati questa mattina e riguardano le immatricolazioni auto in Europa. In luglio la domanda di nuove auto è scesa del 7,3%, in agosto del 15,6% rispetto agli stessi mesi dell'anno scorso. I dati ne sono frutto, spiega l'Associazione dei costruttori di auto europee, del calo di fiducia dei consumatori e della continua crescita dei prezzi del carburante. Pesante ma meno marcato anche il calo di Fiat. Il gruppo su base annuale ha fatto registrare in agosto un meno 13,1% rispetto allo stesso mese del 2007. In luglio il calo è stato più contenuto dell'1,6%. La quota di mercato in Europa comunque sale al 7,2%. È stato presentato il terzo rapporto sui contenuti elettronici realizzato da Confindustria. Sentiamo che cosa contiene. Le famiglie italiane passano sempre più tempo su internet, più di 5 ore a settimana, e cambia il ruolo dell'utente, non più passivo ma attivo e creatore di nuovi contenuti. Basti pensare alla quantità di blog presenti in rete. Questo ha contribuito alla crescita del mercato dei contenuti digitali, che ha chiuso il 2007 a quota 5 miliardi di euro. Nel 2009, secondo le previsioni, si supereranno i 7 miliardi. Così Alberto Tripi, presidente di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, che lancia un monitor. Vincenzo. Il pericolo di una così grande crescita è che se non c'è qualità unita alla quantità, si può avere da parte degli utenti, che sono i cittadini e le imprese, una reazione per overdose. Quindi noi dobbiamo proporre e produrre ai nostri clienti, che sono i cittadini e le imprese, sempre contenuti digitali di grande qualità. I video sono il mercato principale e rappresentano il 61% dei servizi a pagamento. Importante anche la crescita della pubblicità sulle reti digitali, dalle news sui telefonini agli spot su web e TV digitale. Nel 2007 si è registrato un incremento del 47,5% rispetto al 2006. Chiara Di Michele, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. Si è aperta questa mattina a Perugia l'udienza preliminare per l'omicidio di Meredith Kercher, la ragazza inglese di 22 anni uccisa con una coltellata alla gola nella notte fra l'1 e il 2 novembre del 2007. Amanda Knox, Raffaele Sollecito e Rudy Ghedè sono accusati di concorso in omicidio e violenza sessuale. Arrestati il 6 novembre e tuttora detenuti, i tre hanno sempre respinto ogni addebito. Guidati dalle voci di uomini e donne nati prima del 1940, che quattro giovani torinesi stanno raccogliendo sul portale bancadellamemoria.it, iniziamo oggi un viaggio nella memoria. Ieri vi abbiamo raccontato l'iniziativa, oggi iniziamo a farci guidare appunto dalle voci. Molti racconti tornano agli anni difficili della guerra, come nel caso di Giuseppe. È bella la vita, è bella, eh? È bella la vita, è un regalo che è una meraviglia, eh? E finché sono morti, un disastro. Nel mio cortile da sposare abitavano 5 famiglie tra il padre e la mia. In 5 famiglie eravamo 4 in guerra. Un mio cugino, sposato già con una bambina, e altri 2, uno sposato con un bambino e l'altro invece da sposare. Tre alpini, sono andati per la grandezza della patria in Russia e non sono più tornati. Giuseppe Ferrara, classe 1923, è una delle voci raccolte dal portale bancadellamemoria.it. Il suo video racconto ci riporta agli anni della guerra, gli anni della sofferenza e del dolore, e delle colpe, di tanti. Grandi crimini e delitti nascosti, caduti nell'oblio. Di quegli anni l'alpino Giuseppe Ferrara parla senza astio, lucido e sereno, ma anche senza reticenze. Come quando ricorda l'Albania, è un paesetto di poche case in cui arrivò un reparto italiano. Lì c'era una stazione radio con i nostri marconisti. E sono sempre stati di Darwin, nessuno mai tormentati, niente. Avevano una ragazza del porto, una ragazza su 15-16 anni che andava lì, gli faceva pulizia, faceva forse qualcosa da mangiare, eccetera, eccetera. Quando ha visto gli italiani, fra sé ha detto, ma io gli italiani li conosco, anzi sapeva già parlare un po' di italiano. Sì, lì ho visto la violenza, non so quanti sono passati sopra questa ragazza, gli italiani della gente, gli italiani sono gente come tutti gli altri. Paolo Piacenza, GR24, Il Sole 24 Ore. E ora un'altra voce dal passato. È quella della più grande giallista di tutti i tempi, Agatha Christie. Qualche mese fa il nipote ha trovato in una vecchia scatola impolverata 27 nastri sui quali la scrittrice aveva inciso le sue confessioni. Ora questi nastri sono stati resi pubblici, nastri nei quali per esempio Agatha Christie racconta come i suoi fan le chiedessero con insistenza di far incontrare Hercule Poirot e Miss Marple. Tu chi preferisci tra i due, tra l'altro, Alessandra? Forse Miss Marple. Io invece preferisco Poirot. Vabbè, ci dividiamo. Equamente. Ma la domanda appunto, perché non si fanno incontrare questi due personaggi sulle pagine dei gialli, Agatha Christie sdegnata proprio su questo registratore aveva risposto. E perché mai? Sono sicura che a loro non piacerebbe affatto. E da una giallista noi passiamo a parlare di un'altra, Margherita Oggero. In Italia è il simbolo delle scrittrici di gialli. È nelle librerie con Il rosso attira lo sguardo, 4 stagioni di relazioni pericolose, pubblicato da Mondadori. 4 racconti con un filo comune, come ha raccontato a te la stessa Oggero, Alessandra. Il filo conduttore di questi 4 racconti è la difficoltà delle donne, di molte donne, di queste protagoniste, di capire se stesse e il fatto che in un particolare momento, che è un momento di crisi, che è un momento di pericolo, che è un momento inaspettato, questo momento le mette di fronte alla necessità di scegliere e quindi fanno delle scelte positive, delle scelte che diventano positive per il loro futuro, oppure delle scelte distruttive, cioè è il momento in cui chiariscono a se stesse sostanzialmente le loro potenzialità, nel senso positivo e nel senso negativo del termine. Poi c'è questo colore rosso, che è il colore degli abiti, il colore di una cassetta delle lettere, che è il colore però anche della passione o comunque delle emozioni violente, il colore del sangue anche, perché c'è anche del sangue in questi racconti. Nei thriller, soprattutto americani, scritti da donne in questi casi, le protagoniste sono spesso anatomopatologhe. I suoi personaggi invece, i suoi protagonisti sono molto diversi. Che cosa le piace raccontare dei suoi personaggi? Qual è l'aspetto che le piace più inventare e raccontare? Ma a me piace raccontare delle storie, se vogliamo, più quotidiane, ammesso che il delitto sia una cosa, il crimine sia una cosa quotidiana. Però mi piace raccontare non dei crimini straordinari, cioè per esempio non mi interessano i serial killer. Mi piace raccontare quei crimini che nascono da delle passioni o comunque da delle emozioni che sono abbastanza comuni, e cioè la gelosia, la vendetta, la sete di potere, che sono poi quelli che normalmente muovono il crimine, più che la patologia individuale, che è quella che muove il serial killer. La crisi finanziaria, il fallimento di Lehman Brothers, sta favorendo qualcuno nella corsa alla Casa Bianca? Sta favorendo McCain o Obama? Ne parleremo tra poco. GR Extra Large, queste le notizie della giornata. Ancora in ribasso le borse europee giorno dopo l'annuncio del crack di Lehman Brothers. La Federal Reserve potrebbe tagliare i tassi. Sono 50.000 in tutto il mondo i dipendenti della banca d'affari americana che perderanno il posto, 140 in Italia. All'Italia la trattativa sembra riaprirsi, ieri l'incontro con il governo, da parte di sindacati confederali autonomi, sbloccata la situazione degli assistenti di volo. Si dovrebbe chiudere tutto entro giovedì, quindi fra due giorni, quando si riuniranno i soci della compagnia aerea italiana, prosegue intanto l'inchiesta della Procura, acquisiti i bilanci degli ultimi 10 anni. Notizia di poco fa, è stato deferito per incitamento alla violenza dalla FIGC il dirigente del Catania, Lo Monaco, che aveva parlato di bastonate sui denti a Mourinho. Oggi era stato attaccato per questo dal ministro dell'Interno, Roberto Maroni. Si apre il processo per l'omicidio di Meredith Kircher. Amanda Knox e Rudy Ghedè sono in aula per l'udienza preliminare. Non Raffaele Sollecito, che è rimasto in carcere. Ucraina, la coalizione arancione filo occidentale che voleva l'ingresso nella NATO è finita ed è a Kiev, il nuovo fronte di tensione tra Russia e Stati Uniti. Di nuovo un calo per le immatricolazioni auto in Europa. Riesce a tenere il gruppo Fiat. La quota di mercato nel vecchio continente sale al 7,2%. Nei giorni scorsi ve lo abbiamo raccontato e lo avete anche sentito nei titoli. Il luogo dove rischia di crearsi il nuovo fronte di tensione tra Russia e Stati Uniti è l'Ucraina. Ebbene, oggi la coalizione filo occidentale, quella che era stata definita della rivoluzione arancione, è definitivamente conclusa. L'Ucraina si spacca sulla NATO e sul futuro del paese in un mondo in cui si riaffaccia una forma aggiornata di bipolarismo. Tra Washington e Mosca, Kiev va in crisi insieme al desiderio diffuso tra la popolazione che vorrebbe una maggiore integrazione in Europa senza esacerbare i rapporti con il vicino russo. Una fine lungamente annunciata che si è consumata questa mattina con la formalizzazione in Parlamento da parte del presidente della Rada di Kiev, Arseniy Yatsenyuk. Il presidente Viktor Yushchenko e la premier Yulia Tymoshenko, protagonisti 4 anni fa della rivoluzione arancione, si sono progressivamente allontanati fino ad essere troppo distanti per qualsiasi collaborazione ed entrare invece in aperto conflitto in vista delle elezioni del prossimo anno. I rapporti tra presidente e premier sono precipitati nei giorni della guerra russo-georgiana, cui il presidente ucraino ha risposto imponendo misure di contenimento della flotta russa stanziata in Crimea. La passionaria Tymoshenko ha bollato il decreto presidenziale come inutile provocazione, si è avvicinata ulteriormente all'opposizione filorussa e ha chiesto la riduzione dei poteri del presidente. Troppo per Yushchenko, che ha parlato pubblicamente di golpe bianco. Ora ci sono 30 giorni di tempo per formare una nuova maggioranza, altrimenti saranno convocate elezioni anticipate. Più che mai l'Ucraina appare il centro di una guerra a distanza tra interessi di potenza, in cui un'iniziativa europea potrebbe essere indispensabile per evitare l'affermazione degli opposti nazionalismi. Gigi Donelli, GR24, Sole 24 Ore. E noi continuiamo a cercare di capire che cosa sta succedendo dopo il conflitto nel Caucaso. Povera Georgia, cattiva Russia, questa è l'immagine del conflitto russo-georgiano che è passata all'opinione pubblica occidentale. Eppure sono stati i georgiani ad attaccare un'area in cui i russi avevano una presenza militare riconosciuta a livello internazionale. Al microfono di Laura Bettini sentiamo Aldo Ferrari, docente dell'Università di Venezia e responsabile per l'ISPI del programma di ricerca sul Caucaso e l'Asia centrale. Io sono personalmente portato a credere che il presidente Saakashvili abbia commesso una vergognosa avventura, una sconsiderata avventura a danno principalmente del suo paese. Mi chiedo però al tempo stesso, proprio per la irrisoria facilità della vittoria russa, se i georgiani abbiano realmente offerto tutta la resistenza militare di cui erano in possesso, o meglio, sempre a livello di congettura, non suffragata da prove, dato che i georgiani erano stati, ai georgiani non era stato consentito l'ingresso immediato alla NATO nel summit di Bucarest, mi chiedo se il presidente georgiano non abbia voluto una piccola sconfitta per indurre alla prossima riunione della NATO invece ad essere accettato come paese membro, insomma. Tutto ma con questo precedente la NATO sarebbe più disposta ad accogliere la Georgia? Guardi, io spero, le dico con franchezza, spero io, come sperano diverse altre persone che si occupano, che questo non avvenga, ma deve tenere presente che la spinta degli Stati Uniti a riguardo è molto molto forte. Il rapporto Stati Uniti-Russia come ne viene fuori? È peggiorato nettamente, si tratta di una situazione diversa dalla guerra fredda, ma che vede obiettivamente una contrapposizione forte tra un paese che sta ritornando a difendere vigorosamente i propri interessi e un Occidente, incarnato prevalentemente dagli Stati Uniti e dalla NATO, che fa molta fatica a riconoscere legittimità ad altrui interessi. Ma quello del Caucaso non è l'unico fronte di tensione aperto per gli Stati Uniti, ce n'è un altro in Sud America, come vi abbiamo raccontato già nei giorni scorsi. Il gruppo di Rio, che riunisce 22 paesi dell'America Latina e dei Caraibi, ha espresso questa mattina il suo sostegno alla Bolivia nel suo conflitto diplomatico con Washington, ribadendo il principio dell'integrità territoriale. La Bolivia, dove nei giorni scorsi ci sono stati scontri fra manifestanti e polizie e sono morte 18 persone, attraversa una grave crisi politica. Il governo ha espulso l'11 settembre l'ambasciatore statunitense alla Paz, imitato il giorno dopo dalla Venezuela, e gli Stati Uniti hanno poi replicato con misure di reciprocità verso gli ambasciatori dei due paesi a Washington. Altro fronte di tensione, ormai storico, se così possiamo dire, è quello iracheno. Giulia Crivelli, gli americani hanno deciso il cambio della guardia per il comando iracheno, fuori dunque il generale Petraeus. Come commentano i quotidiani esteri questa vicenda? Beh, naturalmente sappiamo che l'Iraq è stato al centro anche della campagna elettorale, quindi i quotidiani che sono, come il New York Times, molto critici, ma da un po' di tempo anche il Washington Post, sulla politica dell'amministrazione Bush in Iraq, dicono che comunque è una mossa che arriva troppo tardi, questo generale di danni ne aveva fatti in un certo senso fin troppi. E poi c'è chi, sempre sul fronte dei commenti, dice è una mossa di Bush nel tentativo di mostrare che fino all'ultimo ha cercato di risolvere questa crisi, di non dimenticare mai la questione irachena, che per ora naturalmente, che d'ora in poi naturalmente passa nelle mani, per così dire, di McCain o di Obama, che hanno due piani molto diversi per l'Iraq, quindi appunto vedremo il test delle elezioni, quanti americani, come gli americani reagiranno alle due proposte. Una prevede un ritiro più veloce, l'altra invece molto più graduale. E a proposito dello scontro in campagna elettorale fra McCain e Obama, c'è anche la crisi, il fallimento di Lehman Brothers, lo sappiamo, il colosso americano, che rischia di entrare in campagna elettorale. Insomma, questo fallimento potrà favorire uno dei due candidati alla Casa Bianca? È molto difficile da dire. C'è per esempio una lunga analisi del Wall Street Journal sulla questione Lehman Brothers, e da una parte, siccome naturalmente Lehman Brothers è l'altro fallimento che arriva dopo Fannie Mae e tutta la crisi dei mutui, dove il governo è intervenuto molto pesantemente con un'operazione assolutamente inedita per un governo americano di salvataggio di un'azienda privata. Quindi in un certo senso l'amministrazione Bush fino ad ora è sembrata molto interventista, cioè ha fatto una cosa che ai liberisti più puri non è piaciuta, e però invece è piaciuta naturalmente a chi ha visto diminuire così il rischio degli effetti della crisi del credito sulle persone, per esempio, che sono coinvolte nella crisi dei mutui. Dall'altra però c'è chi vede nella crisi Lehman Brothers anche la conseguenza di un eccesso di liberismo che secondo molti sarebbe stato favorito dall'amministrazione Bush. Io credo che le persone comuni non saranno particolarmente influenzate nella scelta del candidato, a meno che o Obama o McCain nelle prossime settimane facciano delle dichiarazioni, prendano una posizione molto forte, o lo stesso Bush faccia una mossa sorpresa. Ieri Giulia, con te abbiamo parlato delle crisi delle compagnie aeree, adesso stiamo parlando di quelle del credito, abbiamo parlato delle crisi delle compagnie aeree, e così in qualche modo restiamo in tema. Vi riportiamo una notizia appena arrivata in redazione: il ministro dello sviluppo economico Claudio Scajola ha messo alla procedura di amministrazione straordinaria le società Alitalia Express e Volare, entrambe detenute da Alitalia, che come sapete è già commissariata, in sostanza quasi un atto dovuto. Augusto Fantozzi, già commissario di Alitalia, è stato nominato commissario anche delle due aziende. Giulia, noi andiamo in Germania, dove pare si siano accorti che la popolazione è troppo grassa. Sì, questa è una notizia della Welt, un giornale di Berlino. Non soltanto è dopo i 40 anni, secondo questa statistica, che è più un sondaggio a campione, quindi speriamo che non sia proprio così perché è un dato sconvolgente. Comunque, secondo questo sondaggio, dopo i 40 anni il peso medio dei tedeschi aumenta di un chilo ogni anno. E poi c'è naturalmente il problema dell'obesità infantile, che comincia a esserci anche in Italia, come in molti paesi. Giulia, questo fa prevedere un'estensione infinita, nel senso che se uno arriva a 110 anni rischia i 200 kg come niente, tutto sommato. E quindi naturalmente ci saranno campagne per l'alimentazione sana, per promuovere lo sport, tutte le cose che abbiamo già sentito anche in Italia. Sì, le calorie di ogni piatto segnate nel menù del ristorante. In chiusura invece, grazie Giulia Crivelli, parliamo dei maschi italiani, chissà quanto ci tengono alla forma fisica. Ma non solo dei maschi italiani, diciamo di tutti i maschi europei, dei nostri confrontati a quelli degli altri paesi. Quindi sentiamo i dati, i risultati di una ricerca inglese voluta da Discovery Networks, che ha studiato attitudini e comportamenti del maschio europeo contemporaneo. Come sono i giovani uomini europei tra i 25 e i 39 anni? È la domanda a cui ha cercato di dare una risposta la ricerca commissionata da Discovery Networks. Species, giovani uomini, istruzioni per l'uso, è la ricerca di un team inglese che, attraverso l'analisi di speranze, timori, motivazioni e aspirazioni di un campione di 12.000 giovani uomini di 15 paesi europei, è arrivata ad identificare 4 macrotipi: gli uomini responsabili ma sotto pressione, quelli al passo con i tempi, gli egocentrici, ovvero quelli che fanno fatica ad affrontare la strada verso la maturità, e infine gli scansa responsabilità, quelli che vivono alla giornata e che di fronte ai problemi si tirano indietro. In Italia predomina la categoria dell'uomo al passo con i tempi, un giovane che ha un'idea moderna del ruolo dei sessi, in grado di destreggiarsi tra numerosi impegni, ma che tende a posticipare le tradizionali tappe di crescita. Antonella Del Rico, vicepresidente dei canali dell'Europa del Sud. Sono degli uomini che, per una serie di motivi, dal motivo economico, ma anche la voglia di continuare a godere maggiormente dei benefici della gioventù, posticipano alcune tappe. Però nello stesso tempo la paternità, per esempio, è vero che è posticipata, ma viene affrontata con molta consapevolezza rispetto alla generazione precedente. Una curiosità, infine, i giovani uomini sono più consapevoli della propria immagine e spendono in cosmetici, ma se in Italia rappresentano il 26% del campione intervistato, in Russia a confessare questo lato frivolo sono solo il 17%, per ragioni culturali legate al maggior timore di sembrare troppo vanitosi. Adriana Fracchi, GR24, Il Sole 24 Ore. Lehman Brothers, dopo il fallimento si attendono le mosse della Federal Reserve, che potrebbe tagliare i tassi. Intanto sono ancora pesanti ribassi sulle borse europee. L'S&P MIB in questo momento perde l'1,77%. All'Italia qualche spiraglio, sbloccata in parte la situazione degli assistenti di volo. Si dovrebbe chiudere tutto entro giovedì, quando si riuniranno i soci della compagnia aerea italiana. La procura intanto acquisisce i bilanci degli ultimi 10 anni. Incitamento alla violenza, la FIGC deferisce il dirigente del Catania allo Monaco. Aveva parlato di bastonate nei denti a Mourinho. Si apre